Resta qui, perché in un attimo tutto può cambiare da così a così. Sono solamente poi quei piccoli gesti che alla fine fanno pensare anche a me. E adesso credimi se sono strana, sai perché? Forse non è poi così vero che sto bene senza te. All'improvviso tu ti giri e stai per andare via. In un secondo il tuo sguardo mi dice: cosa vuoi che sia? Potresti essere tutto o niente, ma ora fammi compagnia. E aspetta un attimo, immobile così, come sei. E dammi il tempo in un secondo di capire tutto di te, per poi saper dimenticare il tempo passato insieme ormai. E non ha senso, lo so, ma tutto questo è il nostro attimo. Il nostro attimo. E adesso dove metto tutte le fotografie? Tra le facce felici le più belle erano le mie. Io sono stanca di ricordare, se potesse tutto quanto ritornare. Solo quando mi dicevi tu sei mia, in un secondo il tuo sguardo mi dice: cosa vuoi che sia? Potresti essere tutto o niente, ma ora fammi compagnia. Aspetta un attimo, immobile così, come sei. E dammi il tempo in un secondo di capire tutto di te, per poi saper dimenticare il tempo passato insieme ormai. Oh, e dammi il tempo in un secondo. Non ha senso, lo so, ma tutto questo è il nostro attimo. Il nostro attimo. Non mi arrenderò. Oh, yeah. E quando te ne andrò, in un secondo di capire tutto di te, per poi saper dimenticare il tempo passato insieme ormai. Non dammi tempo in un secondo di capire tutto di te. Dammi il tempo in un secondo di capire tutto di te, puoi saper dimenticare il tempo passato insieme ormai. Non ha senso, lo so, ma tutto questo è il nostro attimo.